Pa pa pa pa. Sto parlando a te che insegui l'amore e costruisci la sua immagine ideale, che poi svanisce nel rumore della vita reale. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad ascoltare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, e a decidere sei tu. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sto pensando a te che insegui l'amore, la tua libertà è diventata una prigione, non ti piaci mai e vorresti cambiare. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad accettare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, e a decidere sei tu. Scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, e a decidere sei tu.